Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Francesca Filiasi. Compravo spesso Detective, che a quel tempo se la prendeva volentieri con la polizia e i ben pensanti. I casi estremi ci attiravano non meno delle nevrosi e delle psicosi. Ritrovavamo in essi, esagerati, depurati, dotati di un rilievo sorprendente, gli atteggiamenti e le passioni della gente che si suol chiamare normale. Ma ci toccavano anche in altra maniera. Qualsiasi perturbazione solleticava il nostro anarchismo. La mostruosità ci avvinceva. Chi parla è Simone de Beauvoir. La scrittrice francese si riferisce a una rivista capace di stupire, appassionare artisti e lettori comuni. Una rivista che nella Francia dei primi anni 30 è uno dei fenomeni editoriali più interessanti. Oggi a Destini Incrociati parliamo di crimine, di reportage firmati da grandi scrittori e della nascita di un genere che percorreva i lunghi corridoi dei tribunali alla ricerca dei casi giudiziari più scabrosi, grazie a uomini con il cappello di feltro dalla tesa spiovente e con la voce resa roca dalle sigarette senza filtro. Nella Parigi del malaffare dove è nato il noir, i reporter della rivista Detective si muovono con scioltezza, cercando di captare dalla porta socchiusa su un interrogatorio i particolari più macabri da riportare fedelmente a migliaia di lettori che attendono pazientemente ogni nuovo numero in edicola. È una febbre, quella del poliziesco, che attraverso la rivista Detective sta dilagando in Francia. La stessa nascita della rivista è così inusuale da sembrare scritta da uno dei prolifici redattori del giornale pubblicato dalla famosissima casa editrice Gallimard. Creata inizialmente da un investigatore privato che per farsi pubblicità pubblica alcune storie prese dalla sua personale esperienza, la rivista è in perdita e così il detective decide di sbarazzarsene offrendola al primo protagonista dei nostri destini incrociati. L'uomo mi lasciò 2 o 3 copie del giornale. All'epoca io adoravo i romanzi polizieschi e siccome non c'era alcuna concorrenza in questo campo, pensai che un settimanale basato su queste storie potesse avere molto successo. L'intuizione si rivela esatta. Del resto, l'uomo che comprende l'enorme potenziale insito nella rivista non è un personaggio comune, ma uno dei primi giornalisti a concepire un articolo come un vero e proprio reportage, un mezzo per trarre dalla vita tutta l'avventura che essa può offrire. Il suo nome è Joseph Cassel. Joseph Cassel. Joseph Cassel, insieme al fratello Georges, che diventa il direttore della rivista, si mette subito all'opera. Dopo che Gaston Gallimard acconsente a rilevare finanziariamente il progetto, i due fratelli mettono su una piccola ma agguerrita redazione che diventa di casa nelle stanze del Tribunale di Giustizia di Parigi e negli uffici della polizia, al famoso 3-6 di Quai des Orfèvres. I collaboratori sono giovani talentuosi che si chiamano tra gli altri Jean Cocteau ed Emmanuel Bove. I loro articoli sono congegnati in modo tale da soddisfare non solo le trepide letture delle servette, ma anche palati molto raffinati, come quello della de Beauvoir e del compagno Jean-Paul Sartre, o del drammaturgo Jean Genet. E quando non sono in giro a raccogliere informazioni, la leggenda racconta che i redattori di Detective imparino a sparare mirando alle pile di volumi invenduti dei libri di Gide e Proust nel magazzino messo a disposizione da Gallimard, che funge da redazione. Nel giro di pochissimi numeri, Detective diventa un successo senza precedenti, con le foto in bianco e nero di assassini in manetti o di vittime innocenti sulla copertina e la testata scandita a grandi lettere bianche su un fondo rosso che fin troppo ingenuamente richiama il sangue e la promessa mantenuta ai lettori, perfettamente coincidente con lo spirito ribelle del suo proprietario, Joseph Cassel. Per voi lettori frugherà nelle tenebre, seguirà le tracce del criminale, la pista della polizia. Talvolta in punta di piedi, talaltra con passo spedito, al bisogno impiegherà la fiamma ossidrica pur di forzare il segreto. Parole meravigliosamente evocative, perfette per condurre per mano all'edicola ben 350.000 lettori già dal giorno della pubblicazione del primo numero, all'inizio del mese di novembre del 1928. Ma di parole forti, evocative, è fatto il mondo di Joseph Cassel. Un mondo di frontiera, come di frontiera e la terra dove nasce. Joseph Kessel nasce nel 1898 in Argentina, figlio di un medico ebreo di origine lituana che dopo la laurea a Montpellier in Francia si trasferisce in America del Sud per esercitare la sua professione. Nella sterminata pampa dagli orizzonti infiniti, il bambino impara a pensare senza confini, a colmare il suo bisogno di avventura con esplorazioni forse infantili, ma non per questo meno reali. La musica che fa da sottofondo ai suoi sogni sono le morbide milonghe argentine, nella cui scrittura si cimenta anche il grande scrittore Jorge Luis Borges. Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Si può decidere sin da bambini di diventare avventurieri? Quasi tutti i bambini lo pensano, ma solo alcuni di essi riescono a diventarlo davvero, sostenuti da un carattere particolare, ma anche da vicende eccezionali. Joseph Kessel è uno di questi. A 7 anni si ritrova catapultato dall'America Latina alle steppe desolate di Orenburg, avamposto militare creato dall'esercito russo per controllare la zona degli Urali meridionali, dove il padre viene chiamato a esercitare. Orenburg nasce come una finestra russa sulla Siberia, luogo di cosacchi e di nomadi kazaki. Insomma, l'avventura incarnata in forma di città. Joseph ci vive fino a quando compie 10 anni, camminando sotto la fitta neve per almeno 4 mesi l'anno o gironzolando durante le aride estati per il caravanserraglio dove le carovane kazake e kirghise si riposano prima di partire alla volta dei lontani territori asiatici. Ma Kessel non è destinato ad appartenere neanche ad Orenburg. Nel 1908 parte con la famiglia per una nuova avventura. Ma questa volta non si tratta più di andare verso lontani paesi di frontiera. La frontiera che lo attende è quella della moda, delle nuove tendenze, dell'arte e della letteratura. La Francia. È la Belle Époque. Ovunque nel paese si vive l'euforia di un mondo carico di promesse, di benessere, di pace. Solo 8 anni prima dell'arrivo di Kessel, la grande esposizione universale del 1900 aveva portato a Parigi quasi 50 milioni di persone ad ammirare monumenti inaugurati per l'occasione come la Gare d'Orsay, il Grand et le Petit Palais e la prima linea della metropolitana. È l'epoca del Cancan e del Moulin Rouge, un'epoca che vive con incredibile vitalità nel film omonimo di Baz Luhrmann. Ma di tutto questo, il piccolo Joseph non ne ha quasi sentore. Studia diligentemente prima al liceo di Nizza e poi a quello di Parigi, ancora indeciso sul suo futuro. Ci penserà allo scoppio della Prima Guerra Mondiale a imprimere una direzione alla sua vita. Alla fine del 1916, la guerra dura da 2 anni e Kessel, che ha appena compiuto 18 anni, si sente pronto a prendere parte ai combattimenti. Dopo un breve periodo nell'artiglieria, entra in aviazione, in una piccola squadriglia, la S-39. È la nascita di una passione. Sono anni di ricognizione, stretto nei piccoli cubicoli dei fragili biplano che solcano il cielo. Lunghe giornate trascorse percorrendo infinite distese di terra, punteggiate da brevi battaglie, crepitio di mitragliatrici, le spirali di fumo degli apparecchi abbattuti. E poi le brevi notti sotto coltri di stelle infinite, trascorse a fumare con i compagni, poche chiacchiere sommesse, qualche ora di sonno prima di riprendere il volo. L'esperienza della squadriglia lascia un ricordo indelebile in Kessel, che qualche anno dopo decide di celebrare nel suo primo grande successo letterario, intitolato L'equipaggio. L'ultima missione lo vede tornare nella Siberia della sua infanzia. Dopodiché, la fine della guerra riporta Joseph Kessel sulla terra, in tutti i sensi. E non è una bella sensazione. Sul suo petto scintillano la croce di guerra e la medaglia al valore. Ma quel senso dell'avventura che durante la guerra lo ha portato a compiere per ben 2 volte il giro del mondo non riesce a estinguersi con gli ultimi colpi di cannone. Quel desiderio di bambino, essere un avventuriero, si è solidamente radicato in lui grazie alle esperienze della guerra. Eppure il suo essere avventuriero non è un gioco sterile e fine a se stesso, ma una necessità profonda di comprendere l'uomo e il territorio. Unita all'amore per la scrittura, l'avventura trasforma Kessel in uno dei primi e certamente uno dei più grandi reporter dei suoi tempi, con una carriera che lo vede coinvolto in mille imprese, a partire dall'Irlanda impegnata nella guerra di indipendenza, condotta dal famoso patriota Michael Collins, celebrato nel bel film di Neil Jordan. Noi abbiamo un'arma più potente di tutto quanto l'arsenale dell'impero britannico. E quell'arma è il nostro rifiuto. Il nostro rifiuto di piegarci a qualsiasi ordine che non sia il nostro. A qualsiasi istituzione che non sia la nostra. E lo faremo, Mick! I nostri amici della Guardia Regia irlandese vorrebbero farmi star zitto. Non ci riuscirò! Imprigionarmi ancora, fucilarmi magari. Ma io vi chiedo di mandargli un messaggio. Se mi riducono al silenzio, chi prenderà il mio posto? Chi prenderà il mio posto? Mi sento bene. Chi prenderà il mio posto? Faranno tacere anche voi. Quando Joseph Kessel approda alla redazione di Detective ha solo 30 anni, ma il suo volto già è attraversato da linee profonde. La mascella volitiva, la piega della bocca, ha un'espressione ironica e irriverente. I capelli sono scomposti sulla fronte. È un uomo del suo tempo, un'epoca senza più le illusioni e le speranze di solo 20 anni prima. La generazione che si affaccia agli anni 30 è una generazione colta, intellettuale, veloce, segnata da un moto di ribellione verso le convenzioni borghesi. E forse è proprio questo clima, questo senso di ribellione che Kessel ha in sé, che lo spinge a cercare forme di scrittura più crude, come quelle della rivista Detective, forse più popolari, ma sicuramente non scontate e rassicuranti. Sono gli anni di movimenti culturali di rottura come il dadaismo di Tristan Tzara, il surrealismo di André Breton, Artaud e nelle arti Miró, Man Ray, Louis Buñuel. Anche un giornale come Detective, dunque, diventa una forma di anarchia verso lo stato delle cose. L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né, Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner. Raccontando i grandi crimini del momento, i cronisti, sotto la direzione del fratello di Joseph, George, cercano punti di vista diversi, scorretti, attraverso i quali considerare i delitti. Si comincia con il celebre Landru, l'assassino seriale che uccide e brucia nella stufa almeno 10 donne per impossessarsi dei loro beni, fino alla tristissima vicenda delle sorelle Papin. Christine e Lea Papin sono due sorelle dalla penosa infanzia, prese a servizio dall'odiosa signora Lancelin, che finirà vittima della loro violenza raccapricciante. Il processo ha un finale già scritto dai borghesi ben pensanti, che vedono nella rivolta di due serve verso i loro padroni un atto inaccettabile, da punire con la pena di morte. Ma proprio per le stesse ragioni, gli intellettuali dell'epoca prendono le difese delle due ragazze, scorgendo nel brutale trattamento delle classi più basse la ragione per un delitto tanto efferato. Ed è proprio Simone de Beauvoir, assidua lettrice di Detective, che meglio definisce il drammatico meccanismo sociale che ha schiacciato le due sorelle Papin. Sono strumenti e martiri di una cupa giustizia, protagoniste dell'orrore esemplare, di tutto lo spaventoso sistema per fabbricare pazzi assassini, mostri, che è stato congegnato dalla gente per bene. E Joseph Kessel ha saputo ben insegnare ai suoi cronisti come si fa a far risultare l'orrore dalle pagine di Detective. Del delitto delle sorelle Papin, tutti i francesi ricordano la descrizione sanguinolenta della prima cosa apparsa ai poliziotti, accorsi sulla scena del delitto. Qualche scalino prima del pianerottolo, sul tappeto, posava un occhio. Uno solo, sul tappeto insanguinato. Un occhio tragico, bianco, la cui pupilla fissava l'ombra del soffitto. Il delitto Papin ispira la pièce teatrale di Jean Genet Le Serve, ma non è l'unico delitto che scatena le reazioni di grandi scrittori. Di lì a poco, un altro delitto diventa l'emblema del movimento surrealista, meritandosi poesie e omaggi. Il 21 agosto 1933 un forte odore di gas sembra indicare un tentativo di suicidio nell'appartamento al numero 9 di Rue Madagascar. La giovane Violette Noisier, di appena 18 anni, bussa alla porta dei vicini in lacrime per la morte dei genitori. Quando i poliziotti riescono a entrare nella casa, il signor Noisier è già morto, ma incredibilmente Madame è ancora in vita. All'ospedale, appena riprese le forze, la donna si trasforma nella principale accusatrice della figlia, che si scopre aver somministrato del veleno agli ignari genitori. Nonostante Violette si difenda in tribunale, sostenendo che il padre l'avesse violentata sin da quando aveva 12 anni, la giuria la condanna a morte, pena commutata nella prigione a vita. Intellettuali come Breton, Paul Éluard e Zara si mobilitano, vedendo in Violette lo strumento della ribellione contro l'ipocrisia familiare. Noi non siamo in tanti con te, ahimè Violette, ma delle nostre ombre faremo processione per atterrire i tuoi giustizieri. Nel tribunale del corpo umano condanneremo i signori con cappelle bombetta a portare in capo cappelli di piombo. Questa che avete sentito è solo una delle tante poesie pubblicate in favore di Violette. Quando la ragazza viene condannata alla pena capitale, André Breton le fa addirittura recapitare un cesto di rose rosse. La rivista Detective cavalca il delitto Noisier con la stessa audacia con cui aveva parlato dei delitti commessi da Landru e dalle sorelle Papin. Le tenebre che Cassel prometteva di frugare sono settimanalmente squarciate dagli articoli della rivista, grazie alla scrittura moderna e disincantata dei tanti collaboratori che, in seguito, diventeranno quasi tutti importanti scrittori. Fra questi, ce n'è però uno che colpisce Cassel più degli altri. Un giovane dal lungo naso e dalla pipa ancora più lunga, che gli pende sempre dalle labbra, e dalla ormai leggendaria capacità di scrittura che gli permette, agli inizi degli anni 30, dopo poco meno di 10 anni di attività, di avere al suo attivo circa 190 romanzi, soprattutto di genere popolare e sentimentale. Ma Cassel sa riconoscere la stoffa dell'uomo di talento quando la vede. Il ragazzo di soli 5 anni minore di Joseph ha la capacità di scrivere qualcosa di serio. E dunque Cassel gli propone, fatto atipico per il giornale, di scrivere dei brevi racconti polizieschi. La collaborazione fra Joseph Cassel e il giovane scrittore porta alla pubblicazione di 3 raccolte di brevi racconti polizieschi, dove nasce l'abbozzo della figura di un commissario. Ma è solo nel 1931 che viene pubblicato un racconto vero e proprio con un nuovo carattere poliziesco, destinato a diventare uno dei più famosi al mondo. Fra poco, A destini incrociati. Le temps file ses jeux, l'eau passe sous le pont, sur le bord de la Seine, deux ombres s'en vont. Le temps file ses jeux, rien n'a changé ici. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati parliamo di crimine, di delitti e di scrittura. Il crimine fa parte della vita e va raccontato, come dice il nostro primo protagonista, Joseph Cassel, presentando il suo grande progetto editoriale, la rivista Detective, che spopolò in Francia all'inizio degli anni 30. Il crimine esiste, è una realtà. E per difendersene, l'informazione vale più del silenzio. Detective, la rivista che piace agli intellettuali come ai ceti più bassi della popolazione, sceglie dunque di non nascondere niente, neanche il più piccolo efferato dettaglio dei tanti delitti che si trova a raccontare nelle sue pagine. Sono articoli veloci, creati ad effetto per saziare ogni curiosità, scritti da grandi firme dell'epoca, tutte di ottima capacità. Fra questi però spicca un giovane con un'impressionante capacità di scrittura. Scrittore professionista, è un mito fra i suoi colleghi perché riesce a scrivere anche 80 pagine in un giorno. Ma le sue opere fino ad oggi sono per la maggior parte romanzetti rosa, dai titoli come Il romanzo di una dattilografa o La fidanzata fuggitiva. Con lo stesso slancio creativo, il giovane inventa per se stesso una moltitudine di pseudonimi con cui firmare questi romanzetti che lui considera solo una palestra dove allenarsi per fare il grande salto verso il romanzo d'autore. Nel corso di un decennio si firma di volta in volta Georges Sim, Christian Brulle, Jean Dupéry, Gomgu, Luc Dorsan, Georges Martin Georges, ma il suo vero nome è Georges Simenon. Georges Simenon. Georges Simenon è un giovane belga approdato da poco a Parigi, che grazie alla sua incredibile capacità di produzione ha assicurato per sé e sua moglie Regine, detta Tigi, soldi più che sufficienti per un bel appartamento in Place des Vosges e per godersi la vita. La scrittura con la S maiuscola è ben altra faccenda. E il giovane Georges sa benissimo che dai suoi colleghi viene considerato tutto al più un professionista della penna, più che un vero artista. Ma nel DNA del ragazzo belga di Liegi c'è il gene del grande scrittore e dell'incontro con Joseph Kessel che gli farà imboccare la strada giusta. Ma com'è che Simenon è arrivato in Francia? Facciamo un passo indietro, fino ad arrivare a un giorno sfortunato. Sono nato io di venerdì, il 13, e ne sono molto contento, anche se è un giorno che molta gente detesterebbe di nascere il 13. Ne sarebbe furiosa, si sentirebbe fritta. Mia madre era talmente furiosa che chiese ed ottenne dal medico di scrivere sul certificato che ero nato il giovedì 12. La madre di Simenon, Henriette Brühl, è la tredicesima figlia di una famiglia sottoproletaria di origine olandese, mentre il padre, Désiré, è un contabile della parte francofona di Limbourg. È un matrimonio con alla base una forte disparità sociale, ma che in qualche modo prosegue per 20 anni. Georges è il primo figlio della coppia e nasce a Liegi nel 1903, seguito tre anni dopo da un altro maschietto battezzato Christian, che in breve diventa il figlio preferito di Henriette. Georges, però, si dimostra in fretta il figlio più intelligente. A tre anni sa già leggere e scrivere e si classifica per tutti gli anni di scuola sempre fra i primi tre della classe. Tuttavia, arrivato alla fine del liceo, sceglie di non prendere il diploma per aiutare economicamente la famiglia, viste le cattive condizioni di salute del padre. Dopo vari lavoretti, riesce a entrare alla Gazzetta di Liegi. Georges ha solo 16 anni. E così eccomi impiegato alla Gazzetta. Ovviamente non mi fu dato nessun editoriale da scrivere, ma ero quello vessato da tutti, come tutti i principianti che si rispettino. Gli anni della Gazzetta sono fondamentali per Simenon, non solo per imparare un mestiere, ma soprattutto perché scopre il fascino della cronaca nera. Il giovane Georges scopre la notte, i bar di malaffare, le case chiuse, l'intontimento dato dal vino, i berretti dalla visiera calata su sguardi furtivi, gli artisti bohemian e gli artisti dello scasso. Tutto un mondo che si imprime vividamente nel suo immaginario, pronto a venir richiamato alla memoria quando sarà il momento giusto. Sono uomini e donne che anni dopo, con le loro storie apparentemente normali, creeranno un innesco nella fantasia di Simenon. E allora la questione diventa: a questa gente, in questo ambiente, cosa può succedere che le obbliga ad andare fino in fondo di loro stessi? Perché chiunque nella vita può diventare l'eroe di un romanzo. Se non succede, è perché le circostanze della vita non ve l'hanno spinto. Nell'attesa di rendere queste persone protagoniste dei suoi futuri romanzi, Simenon affina l'arte del giornalismo scrivendo per la Gazette più di 150 articoli di tutti i generi. Con i guadagni aiuta la madre, che dopo la morte del marito affitta una stanza alla gente di passaggio. Ma i soldi servono a Georges anche per coronare un sogno. Simenon è troppo sveglio e intraprendente per accontentarsi dell'ambiente ristretto di Liegi. Si sente chiamato a fare grandi cose. Si sente chiamato a Parigi. C'est si bon de se dire des mots doux, de petit rien de tu, mais qui en disant long, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient, c'est si bon. Quando arriva a Parigi alla fine del 1922, Simenon è un ragazzone biondo sicuro di se stesso e del suo futuro, anche se ancora lontana la scelta di vivere una vita d'artista. Quello che per il momento vuole per se stesso e per Tigi, la pittrice conosciuta frequentando la bohème liegese, è una buona raccomandazione per un posto sicuro. La raccomandazione non mancherà, e dunque si succedono i lavori come segretario di un importante scrittore belga e di un aristocratico parigino. Ma in breve, grazie anche all'aiuto della scrittrice Colette, la scrittura diventa sempre più un lavoro a tempo pieno. Ma una gran parte del suo tempo la dedica anche alle donne. una voracità che va di pari passo con la sua prolificità letteraria. Essere a Parigi con la moglie Tigy non gli impedisce, nel 1925, di avere una relazione abbastanza pubblica con la star delle Folies Bergère, la donna dal gonnellino di banane, la mitica Joséphine Baker. La ballerina di colore, originaria di Saint-Louis in America, è appena giunta in Francia al seguito dello spettacolo La Revue Nègre e Le Tu Paris si accalca ogni sera al teatro degli Champs-Élysées per andare ad acclamare questa Venere nera che a seno nudo e gonnellino di banane si scatena nel più pazzo dei Charleston, una danza che a quei tempi è ancora sconosciuta in Europa. Georges Simenon è in prima fila quasi tutte le sere e in breve tempo diventa l'amante dell'estroversa e generosissima ballerina con cui dividerà una passione di fuoco per ben 2 anni. In seguito Simenon dichiarerà sempre che se non avesse avuto Tigy avrebbe anche potuto sposare Joséphine. Quando anni dopo si rincontrano, l'amicizia fra i due è ancora profonda. Al termine della relazione con la Baker, Simenon scopre un'altra grande passione, la barca. Dopo un breve viaggio su una piccola imbarcazione, lo scrittore entusiasta si fa costruire un battello con cui navigare per i canali di Francia, l'Ostrogoth. Ed è al termine di uno di questi viaggi che lo raggiunge la proposta di Joseph Kessel. Kessel vuole qualcosa di speciale per il suo giornale, Detective, e pensa che questo qualcosa gli possa essere dato dal giovane Simenon, a cui chiede di scrivere dei racconti. Kessel vuole dei racconti criminali, nei quali riportare le atmosfere dei grandi delitti che ogni giorno la rivista Detective descrive ai suoi assetati lettori. Kessel vuole un protagonista forte, qualcuno che ricordi la figura del capo ispettore Marcel Guillaume, il poliziotto con la bombetta e i baffi a manubrio che ha condotto gli interrogatori di Henri Landru e di Violette Noisier, un poliziotto vero, solido. Mi sono ricordato probabilmente dei commissari che avevo conosciuto quando ero giornalista, perché andavo a fare il giro dei commissariati tutti i giorni per i reportage e avevo molti contatti con la polizia e mi sono ricordato dei veri poliziotti. E forse c'era anche un'altra ragione perché io abbia scelto questo personaggio, e cioè che a quel tempo in Francia l'eroe di un romanzo poliziesco era sempre lo scassinatore o l'assassino, oppure un detective dilettante, tipo un giornalista, mentre invece il poliziotto era sempre l'imbecille o il personaggio antipatico. Ora, proprio perché avevo tanto frequentato la polizia, mi sono detto, perché non fare un vero poliziotto proprio come quelli nella vita vera? E ho fatto Maigret. Maigret, il commissario Maigret, nasce dunque a bordo dell'Ostrogoth, nei brumosi canali olandesi dove Simenon si trova in crociera con la moglie nel 1929. Un avvenimento celebrato nel piccolo paese con una statua dedicata al commissario più famoso del mondo. Quando nasce, Maigret è già un roccioso signore di circa 45 anni, di sane origini contadine, sposato con l'ottima signora Maigret, famosa per preparargli un superbo coq au vin. È il classico antieroe. Grazie alle indicazioni di Joseph Kessel, le capacità di Georges Simenon e gli insegnamenti della rivista Detective, nasce dunque un personaggio che per la sua totale assenza di caratteristiche da star, diventa una delle stelle più pregiate del firmamento letterario mondiale, consacrando finalmente Simenon nell'Olimpo degli scrittori di razza. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream. Follow where you be, and I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati due uomini si incontrano sulle pagine di un'innovativa rivista di crimini e delitti per dare vita a uno dei protagonisti di romanzi gialli più famoso al mondo, il commissario Maigret. Georges Simenon e l'ideatore della rivista Detective, Joseph Kessel, danno avvio a una serie di avventure poliziesche che nel corso di qualche anno costruiranno nell'immaginario la figura e la personalità del bonario commissario che in Italia, grazie alla mitica interpretazione di Gino Cervi, diviene un fenomeno di incredibili proporzioni. Buongiorno commissario, è prestissimo stamattina, eh? Prestissimo, senti, mandami subito Besson e poi fammi portare un bicchiere di latte caldo con un po' di cognac. Mi sono buscato un raffreddore qui. Subito commissario, subito. Il segreto narrativo di Maigret sta nell'asciuttezza del racconto, dove tutto è scarno e reale. E il commissario arriva alla comprensione del delitto grazie a una capacità di comprensione psicologica che non concede nulla ai colpi di scena eclatanti. Così come Maigret è rappresentato come un uomo solido e scevro da preziosismi letterari, anche i romanzi che lo vedono protagonista non si concedono inutili estetismi, ambientazioni favolistiche o mondi esotici. Al contrario, con Simenon si assiste alla borghesizzazione del romanzo, in cui vite piccine, senza storia, acquistano peso nel dramma del crimine sullo sfondo di una Parigi dei sobborghi o nella smorta vita di provincia, dove il perché diventa molto più importante del chi. Dal 1930 al 1972, Georges Simenon scrive 75 romanzi e 28 racconti con il commissario Maigret come protagonista, grazie al suo infallibile metodo di lavoro. Tutti i miei romanzi, fatta eccezione di Pedigree e forse di altri uno o due, sono più o meno tutti della stessa lunghezza e sono unicamente il risultato di forza fisica. Io sono capace solo di scrivere tutto di fila, cioè un romanzo in circa 8-11 giorni al massimo. Tutte le mattine un intero capitolo, vivendo giorno e notte nella pelle dei miei personaggi. Dunque, si tratta di uno sforzo fisico tale che dopo 8 giorni io smetto. Non è possibile durare più di quel tempo nella pelle di un altro. Oltre alla serie di romanzi con Maigret, Simenon scrive centinaia di altri romanzi che ormai sono diventati classici della letteratura, da Tre camere a Manhattan all'Uomo che guardava passare i treni, a Monsieur Here. In tutto 450 romanzi pubblicati in 55 lingue e in 44 nazioni, per un totale di più di 700 milioni di libri venduti. Anche se la produzione letteraria di Joseph Kessel è inferiore in numeri, non lo è nel suo impatto sulle coscienze del pubblico di quegli anni. A differenza di Simenon, i romanzi di Kessel sono opere di formazione, libri che esprimono fino in fondo la sua indole di avventuriero e reporter. I titoli sono di per sé stessi esplicativi. Venti di sabbia, Le notti in Siberia, Mercanti di schiavi, L'armata delle ombre. Eppure, fra tanti libri di avventure, il suo più clamoroso successo è un romanzo atipico, inquietante. Morboso. Bisogna trovarle un nome che sia semplice e coquette, che si ricordi facilmente. Vuole che lo troviamo insieme? E quello mi chiede che ci fa lei qui, a me. Questo lo chiamiamo il signor Adolf, è uno dei nostri migliori clienti. Vedrai, simpatico. Ho un'idea. Se si facesse chiamare Bella di giorno. Bella di giorno? Vieni qui solo di giorno. Sì, sì, se vuole. Quello che avete appena sentito è il film forse più famoso del grande regista Luis Buñuel, tratto dal romanzo di Kessel, Bella di giorno. La protagonista è una meravigliosa Catherine Deneuve, che interpreta una giovane sposa dell'alta borghesia parigina, glaciale col marito, e che invece prova un piacere masochista a prostituirsi in una casa di appuntamenti. Kessel non è solo un romanziere, ma soprattutto, più ancora che Simenon, un uomo molto interessato ai fatti del suo tempo. Allo scoppio della guerra diventa corrispondente di guerra e quando la Francia viene invasa si unisce alla resistenza per poi raggiungere Londra e unirsi alle forze del generale de Gaulle. Ed è proprio a Londra, nel 1943, che incontra la musicista franco-russa Anne Marly, che ha appena scritto la musica per un canto di protesta. Cassel è così impressionato dalla melodia che decide di scrivere le parole. E poi Joseph Cassel s'approche de moi e mi dit voilà. E così Joseph Cassel mi avvicina e mi dice: ecco, le parole sono pronte, le vuoi cantare? Nasce così il canto dei partigiani, che diventa talmente famoso durante la resistenza da venire proposto come inno nazionale al posto della Marsigliese e cantato da grandi artisti come Yves Montand. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Alla liberazione Kessel riprende i suoi reportage, soprattutto in Palestina, dove assiste alla nascita del nuovo Stato di Israele. Simenon, invece, nonostante si prodighi durante la guerra come ufficiale di raccordo per i cittadini belgi in Francia, cerca di tenersi sempre lontano dalla politica. Ci sono due cose di cui non parlo mai nei miei romanzi, né nelle mie conversazioni: la religione e la politica. A differenza di Kessel, che conosce la gloria grazie al suo canto dei partigiani, nel clima di caccia ai collaborazionisti che segue la liberazione, Simenon viene sfiorato dalle accuse di aver avuto troppo successo con i suoi libri durante l'occupazione. Sceglie dunque il volontario esilio e nel 1945 si imbarca con TG e il piccolo Mark di appena 6 anni per il Canada. Non è l'ultimo degli spostamenti di Simenon. Dopo l'America ci sarà di nuovo l'Europa, la Francia e la Svizzera, in un perenne inquieto peregrinare, forse la cosa che più l'accomuna al suo amico Joseph Kessel. Sebbene diversi nel carattere, Georges Simenon e Joseph Kessel sono due uomini completamente immersi nella loro epoca, un'epoca fatta di grandi rivolgimenti a cavallo fra due guerre mondiali, un'epoca dove le opportunità si possono cogliere a piene mani se si possiedono qualità come l'intraprendenza, la capacità di comprendere il bisogno di rinnovamento e la curiosità verso la composita umanità di quei tempi. Gli anni passati alla rivista Detective sono stati certamente un periodo determinante nella crescita di entrambi gli scrittori. La contaminazione con i sentimenti più nascosti e controversi dell'animo umano, con le forti passioni che scatenano i peggiori crimini e con personaggi pieni di ombre, arricchisce il loro mondo creativo permettendogli di realizzare opere di grande valore, ma anche di comprendere le cose veramente necessarie nella vita. Pace, comunione, accettazione. Questa capacità viene riconosciuta a entrambi con la più alta onorificenza, l'elezione ad accademico. Di Francia nel 1962 per Joseph Kessel e all'Accademia del Belgio per Simenon nel 1951. Onori, gloria, fama hanno fatto parte della vita di questi due uomini che hanno vissuto a piene mani nel loro tempo, ma con un'unica certezza nel loro cuore, espressa con grande semplicità da Simenon quasi al termine della sua vita. Qual è la cosa più importante per lei? Vivere in pace con se stessi. Una frase che sarebbe piaciuta molto anche a Joseph Kessel. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.